Il 6 e il 7 maggio alle amministrative, la sinistra per Como candida sindaco Donato Supino. Nel programma, democrazia e partecipazione. Rivalutazione di Como, città antifascista e simbolo della resistenza europea. Istituzione dei comitati di quartiere. Introduzione del bilancio partecipativo. Territorio, ambiente ed emergenza casa. Stop al cemento. Vendita di immobili commerciali pubblici per ristrutturazione delle case comunali. Istituzione, agenzia pubblica per mettere in contatto chi cerca e chi offre casa in affitto a prezzi popolari. Agevolazione fiscale per chi affitta attraverso questa agenzia. Beni comuni e raccolta differenziata. Pubblicizzazione di tutti i dati sullo stato dell'acqua potabile. Obiettivo rifiuti zero. Introduzione di una tariffazione variabile della TARSU a seconda della quantità di differenziata eseguita dal cittadino. Miglioramento dell'arredo urbano e dei giardini pubblici. Stop ai centri commerciali, promozione del commercio equo solidale a chilometri zero, istituzione di nuovi orti comunali, allargamento della zona a traffico limitato e aumento delle piste ciclabili, trasporto pubblico, stop ai mezzi pubblici inquinanti, investimenti su mezzi GPL e metano, appalto unico nel trasporto pubblico locale e provinciale, rafforzamento dei parcheggi nelle stazioni di interscambio, abbonamenti agevolati in base alle fasce di reddito, rilancio del progetto della metrovia, area ex Ticosa, rivalutazione in chiave ecologica, rilancio di percorsi e siti della Spina Verde anche con illuminazione a fonte solare, no alle paratie, restituzione del lungolago alla cittadinanza, class action per i danni economici, ambientali e morali subiti da Como. Lavoro, sostegno ai lavoratori disoccupati con lavori socialmente utili e agevolazioni contributive, mediazione con gli istituti di credito per il problema mutui, adesione al protocollo per l'utilizzo dei lavoratori in mobilità. Rilancio del turismo. Turismo come vocazione principe del comune. Creare un tavolo con tutte le organizzazioni che promuovono il turismo. Istruzioni e cartellonistica multilingue. Servizi sociali. Monitoraggio dei bisogni dei cittadini e piano di servizi alla persona. Miglioramento dell'offerta di asili nido, mense scolastiche e dopo scuola. Attivazione di un ufficio del coordinamento del volontariato territoriale. Miglioramento della qualità della vita e della partecipazione degli anziani. Eliminazione delle barriere architettoniche. Rivalutazione area ex Sant'Anna e realizzazione cittadella sanitaria. Disincentivazione di slot machine sul territorio comunale. Ex San Martino. Creare un quartiere formato da comunità di malati in parte autogestite. Il 6 e il 7 maggio alle amministrative, la sinistra per Como candida sindaco Donato Supino. Il resto del programma su www.donatosupinosindaco.it.